In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the cry. Ora ragazzi, ciao, benvenuti a Radio Alma, benvenuti a Cento Città. Questa è una nuova puntata. E oggi no, io oggi non posso temporeggiare, non posso fare i giochetti, gli indovinelli, perché qualsiasi cosa dica mi sgamate subito. Vabbè, proviamo. Allora, pizza. Già qualcuno ha pensato a una città, però ancora non ci siete arrivati, ve ne do un altro. Allora, spaghetti. Ecco, qui già forse state un attimo capendo di cosa sto parlando. Allora, se dico spaghetti, pizza, mandolino, dai, qui avete capito spudoratamente che sto andando a parlare di Napoli. Napoli mille colore, questa città incredibile che ha una storia addirittura trimillenaria. E Stendhal disse che solo Napoli e Parigi potevano essere capitali europee. Oh ragazzi, l'ha detto Stendhal, non è che lo ha detto Giulio. Ehi, ciao Giulio. Ciao. Tutto bene? Sì, sì. Ok, allora ti volevo dire che Chiano Mierulo Cavia Brecciosa. Eh? Questo, tu prendi, raccogli e fanne perle di saggezza. Allora, Napoli dal XIII secolo e per i successivi 600 anni è stata la capitale del più grande stato italiano preunitario, perché prima che l'Italia diventasse un regno unito era, diciamo, la capitale dell'Italia meridionale. Era uno dei principali centri di riferimento culturale ed era veramente un riferimento per tutta l'Italia meridionale, anche per quanto riguardava la società e l'economia. Poi dopo il regno si è unito e purtroppo Napoli un attimo è decaduta. Oggi è una delle città italiane più popolate e conta con tutte le province 3 milioni. Queste province si estendono fino a Caserta e fino a Salerno senza mai fermarsi. Napoli è prevalentemente collinare e su queste piccole colline sono nati dei veri e propri quartieri e dei rioni storici. È stata fondata dai greci nell'VIII secolo a.C. che viene chiamata Partenope, da qui città partenopea. E poi diventerà Palepolis, che vuol dire città vecchia, e poi quando viene rifondata Neapolis, e da lì Napoli. L'economia purtroppo a Napoli non ha mai preso il via, non ha mai ingranato alla grande, per vari problemi di cui poi parleremo. Però, cavolo, ci sono un sacco di risorse culturali, di monumenti, e quindi potrebbe un attimo fare una svolta con il turismo. Infatti i suoi monumenti e le sue risorse culturali racchiudono 2800 anni di storia, però purtroppo la mancanza di fondi, la scarsa valorizzazione ha fatto sì che le cose degradassero un pochino. Comunque l'assetto urbano di Napoli si ha in epoca greca e questo periodo ci ha lasciato varie testimonianze del suo passato, perché vediamo le mura, le torri, i resti della necropoli, i templi, il foro e innumerevoli architetture antiche poste nel sottosuolo. Nel mondo, pensate, esistono oltre 20 città che si chiamano Napoli, poi abbiamo Naples o Neapolis. Allora, visto che i napoletani sono in tutto il mondo e visto che Napoli è internazionale, allora in diretta lancio una sfida e un invito. E se vi trovate nei paraggi della radio, vi aspetto qui nel giro di pochi minuti, il tempo di una canzone. Allora, sappiate, ascoltatori, che il napoletano che accetta la sfida quasi sempre vince. Pasquale Gaffiero e son brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore do sta fatenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, mi sbottone e mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure il carcere s'anne fa. Caricetta che c'è c'era nella compagna di cella c'ha dato mamma. prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi scervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore, che Dio lo perdona, dinte il rullotto ci tiene i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, pulite a spremuto, pulite un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Cari gente che ci c'era nelle compagne di cella già date mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Cari cetta di Cicirinella, compagni di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con beni, buchi, lo stipendio, è un anno se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attendo le scarpe o cillè, gradite o campari o volte o caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usante fa. Caricetta che cicciro nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usante fa. Caricetta di cicciro nella compagna di cella precisa mamma. Bentornati a Cento Città, stiamo parlando di Napoli. E tu, Giulio, circa mettere a capo fa bene. Sì, sì. Una perla gratuita. Così. Sempre. Tanto per trasmetterti un po' di saggezza napoletana, quindi prendi su e porta a casa. Perché i napoletani vantano centinaia, migliaia di proverbi, modi di dire storici che sono oltretutto verissimi, ma nonostante siano ferratissimi in materia, c'è un argomento dove i napoletani veramente non li batte nessuno. E direi il gioco, l'interpretazione dei sogni. E sto parlando appunto della famosissima smorfia, che è una grande tradizione napoletana. E il nome smorfia deriva da Morfeo, che è appunto il dio del sogno. E poi legato alla smorfia c'è un personaggio famosissimo che è il Monacello, che è uno spiritello demoniaco, no? Che si dice che venga nei sogni e ti dia i numeri, però non bisogna dire niente, devi state zit, devi prendere i numeri e andarli a giocare. Giulio, io immagino che tu, secondo me, sei ferrato in queste cose. Per esempio, se ti dico 66, a cosa corrisponde? Così, a caldo. Ti do 3 secondi di tempo. 1, 2, 3, niente, non sai niente. Beh, 38. 38. È mattato. Bravissimo, è 62. 62 è l'assassinato. Ma o no. Morto acciso. No. O morto acciso. Il 49. 49? 49, aspetta, aspetta. O pieste carne. No, no, aspettate un attimo. No, qua c'è qualcosa che non. Qua c'è qualcosa che non mi quadra. Ho preso il ritmo, Leda. No, non hai preso il ritmo. Ho ricordato delle mie origini napoletane. Dimmi la verità. Dimmi la verità, Giulio. Non ci credo. Dai, mi hai sfoderato anche l'accento napoletano. Perfetto. Dai, c'è qualcuno lì con te. C'è qualcuno lì con te che è di Napoli. Perché io ho lanciato una sfida prima e qualcuno secondo me l'ha raccolta. Aspetti, purtroppo mi hai sgamato. Chi è questo? Un grande questo o questo? Che ti ha raggiunto di corsa direttamente. E sta anche malissimo, come potete sentire. Perché ha corsa al freddo, non sei neanche non hai fatto una corsa per è una donna, quindi benvenuta. Ciao ragazzi. Non si è vestita, è venuta qua direttamente come era sì, e infatti è piuttosto svestita. Ma perché sono abituata al calore di Napoli, me lo porto dentro. Benissimo, e questa bella ragazza come si chiama? Jessica. Jessica direttamente da Napoli. E già. Allora, come dicevo, la sfida è stata lanciata ed è stata colta e vinta perché la napoletana è qui. Eccomi allora, qui. Prima di tutto io, cioè, perché uno può presentarsi qua in studio, no, e dire sì, sono napoletano, sembra da parlare un po' così, no? E tutti possono fingere qualsiasi persona. Allora io ti devo mettere alla prova e iniziamo con le male parole. Male parole, innanzitutto, che sono le male parole? Le male parole? Sono le parolacce, sono gli insulti che normalmente si fanno per le strade di Napoli. Ah, così, mentre... Contro i poliziotti, contro i carabinieri. E allora, per esempio, se io te ne dico un po', tu mi devi dire l'infiltrato. Ok, vai. Allora, sono pronta. Chiavga, un guacchiat, gualler, pucchiac, zompaperet. L'infiltrato, chi è? La chiavi che la discarica. Ma si dice in che contesto? Si una chiavica. Quasi proprio una chiavica. Vuol dire quando una persona non si comporta particolarmente bene, non conquista la tua simpatia, anzi magari ti ha fatto qualche sgarro, e allora è proprio una chiavica. Credo sa bene se queste persone non sono italiane. Ah, capiscono l'insulto? No, no, non penso. Non, ma in realtà zona. Penso anche che un milanese non riesca a capire sino a chiave. No. è un po' difficile. Un romagnolo lo capisce. Un romagnolo, sì, ma voi siete upper, diciamoci la verità. Troppo intelligente. troppo. E inguacchiato? Inguacchiato è una cosa, cioè inguacchiato letteralmente vuol dire sporco. Macchiato, unguacchiato, un affare sporco è una cosa unguacchiata. E Waller? Oppure a Waller, no ragazzi, a Wallera c'è l'ABC napoletano, non si può non sapere. Ma si può dire? Mi è buffata Wallera. Beh, diciamo che anche senza spiegarlo è abbastanza chiaro. Sì, diciamo. E pucchiac, zompaperetta. A pucchiacca fa parte invece dell'apparato genitale femminile. Ah, va bene. Normalmente si dice si può una pucchiacca. Ma è bello, è un complimento. Sì, è un gran complimento. Ah, è la No, ragazzi, è quando vediamo una bella ragazza, ammettiamo che sia una f***a, nel senso che è una bella ragazza, non era una male parola. E anche zompaperetta. Zompaperetta, in realtà esiste anche in napoletano, quindi mi trovo un momentino in difficoltà, non riesco a trovare l'infiltrato. Allora, l'infiltrato era un guacchiato. Ma un guacchiato esiste, ragazzi, esiste. Perché è riferito a un piatto culinario di cui poi parleremo, ma... Ah, ok. Ma non sarà che la nostra ospite non è proprio di Napoli centro? No, ragazzi, scherziamo. Allora... Via Duomo 19. No, allora, adesso facciamo un test per vedere se è veramente di Napoli, ma intanto sta malissimo perché lei è di corsa. Allora, iniziamo. Sei un vero napoletano. Sì, che vuol dire te ne hai? Te ne hai? Te ne devi andare. Te ne devi andare. Che lavoro è o Gianchier? L'imbianchino, il macellaio o non ne ho idea? Non ne ho idea. Se uno ti fissa, tu te ne vai, lo guardi anche te o gli dici fratmo, tieni qualche problema? Oh fra, tieni qualche problema. Ok, questa qui. Chi è il tuo idolo? Pelé, Maradona, Del Piero? Maradona, ragazzi. Perfetto. A proposito, non è un idolo, è un dio. Aspettate, per tutti gli italiani che andranno a Napoli, assolutamente andate a San Biagio del Libraio, dove c'è l'altarino di Maradona, dove troverete i capelli di Maradona custoditi preziosamente in una teca. E lì ci sarà anche una sorta di preghiera che ogni bravo fan di Maradona dovrà ovviamente solennemente recitare. E dopo, per non diciamo, per non offendere il fato che ti ha condotto su quella strada e ti ha fatto conoscere il cappello di Maradona, dovrai rendere omaggio attraverso un caffè dalla caffetteria, non mi ricordo chi, comunque. E se non lo fai ti... Quindi sfiga. Sì, passerà dei momenti. È una pura operazione commerciale. Assolutamente no. Assolutamente no. No, fa parte di un rito. No, attenzione, fa parte di un rito. Ma che operazione commerciale, oh, è un rito. Siamo a Napoli, ma che operazione? A Napoli, queste cose. No? Gente se vuole fama. Senti, infatti. E allora, se ridi guardando qualcosa, stai guardando Siani, Ale Franz e ditelo voi. La tua risposta. Siani. Siani. Sì. E se ti dico sto parian. Cosa wow, vuol dire? Sto parian. Mi sto di... Aspettate, ecco. Sul verbo pariare ci sono tante cose da dire. Ah, questa ragazza è formatissima. No, ragazzi, perché io sto esportando il termine, la filosofia del pariamento a Bruxelles. E anche il mio coinquilino, che deve assolutamente venire, dopo vi dirà cosa vuol dire pariare. Pariare letteralmente vuol dire digerire, ma può essere in senso lato utilizzato per intendere divertimento, nonché per dire di aver avuto una felice avventura con una ragazza / ragazzo. Puoi dire ho pariato con tizio. Io e me non ho pariato l'altra sera con chi avrei voluto pariare. Ecco, qui si sta aprendo anche a cose la personali chiavica. E niente, quindi si sta anche confidando con noi e noi siamo solo contenti. Quindi allora questo quiz è stato carino, divertente, bene, il risultato, allora vediamo, lo calcoliamo perché abbiamo qua una cosa professionale che calcoli i risultati. Dice che tu sei napoletana ma non doc. C'è qualcosa che la nostra ospite non ci ha detto. Sì, devo confessare, mi spiace ma devo confessare, in realtà io sono irpina. Vengo da Avellino, anzi da Tripalda. Ovviamente nessuno conosce Tripalda, ma anche bene fondamentalmente. Cosa? Famosissima Tripalda. Che era la vecchia Bellinum, la vecchia Bellinum, ragazzi. Cioè, quindi Avellino in realtà era Tripalda nei tempi dell'impero romano. Chi non lo sa? Chi non lo sa, però sono napoletana d'adozione, poiché ho vissuto lì 5 anni durante i tempi dell'università. E quindi sono. E nonché fidanzata con uno stabiese. E quindi sì. No, stabiese me devi spiegare. Di Castellammare di Stabia. La terra di Al Capone. Fidanzata allora. Nacque lì, sì, Al Capone. Sì, ero fidanzata allora, adesso è finita, adesso lui sta con un'altra. Tanti saluti, Salvatore. Ma tu da napoletana non ti metterai mica con uno straniero. I napoletani si devono mettere con i napoletani e continuare, no? La generazione. No, in realtà no, ho un po' rotto la tradizione con un po' di tunisini. Però. Non è che andrei con un francese, no, un parigino, un bruxellese. No, ti prego, non ce la posso fare. Beh, guarda, allora io a questo punto non so neanche più se metterti alla prova, a questo punto ti sei scoperto. Ti chiedo, te conosci le perciatelle unguacchiate? A questo punto vedi la parola La perciatella sì, non l'ho letto, giuro che non l'ho letto. La perciatella. No, la perciatella è che guardava. Ma no, ragazzi, io sono miope tra l'altro. La perciatella è la pentola. La perciatella è la pentola. Guacchiata, sporca. Già qua mi sbaglio. No, la perciatella è quell'affare con cui si prendono. Si sta arrampicando. Il colabrodo. No, i bucatini sono i perciatelli. Mi spiace. Ecco, vedi, lo spirito irpino esce fuori. Va comunque. Si ribella. Perciatelle inguacchiate sono solo uno dei tanti piatti che potete trovare nella cucina napoletana. Beh, allora adesso io ti voglio provocare, no? Perché. Sì. Cioè, innanzitutto tu sarai orgogliosa, no, di appartenere alla cultura partenopea. Assolutamente, no? Sì. Ti piace l'uomo napoletano, ti piace il calore, no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora io ti voglio leggere cosa pensano, non so, i polentoni nordici, no? Di cosa pensano dei napoletani. Vai, sono allora, pronta, sono preparata. Uno scrive, perché i napoletani fanno sempre queste figure in giro? Parlo dei tifosi, della munnezza. Perché fanno sempre queste figure per l'Italia nel mondo? Mi è capitato di andare all'estero e trovare dei posti dove non avevano un bel ricordo di questi. E qua è un forum, c'è la gente che risponde e che dice bisognerebbe chiederlo ai napoletani. Io abito a Genova e che posso assicurarti che la nostra mentalità è molto diversa. Però purtroppo i napoletani si fanno sempre riconoscere. Lo so. No, so fin troppo bene l'opinione che si ha dei napoletani. Soltanto all'estero, anche da Roma in su, forse anche al di là dei confini napoletani. Ma sembri compiaciuta. Cioè, no, non sono compiaciuta. È che ragazzi, cioè. Napoli è bellissima. Io penso alla gente che parla male di Napoli. A Napoli non ci ho mai messo piede, fondamentalmente. Non ha mai saputo apprezzare lo spirito di Napoli e le cose meravigliose che Napoli offre. A partire dalla gente, dal calore, dalla cucina, ragazzi. abbiamo i nostri difetti. Purtroppo non ho alibi per la munnezza. Va bene, allora ti leggo quello che dice un turista che è stata a Napoli. Dice: Napoli è la città dei pacchi. Mi raccomando, se capiti dalle parti della stazione di Piazza Garibaldi, non acquistare alcunché da persone sospette. Assolutamente no, ragazzi, assolutamente no. Anzi, se vi fermano per farvi tipo il gioco di carte, non vi fermate che è una truffa, vi rubano solo soldi. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Tu dimmi quando, non guardarmi adesso, amore. Sono stato perché penso al futuro. Tu dimmi quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora. Giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia, è il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste. Ancora. Tu dimmi quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso, ed io ho sete ancora, e vivrò. Di andar via, tra i ricordi e questa strana pazzia, è il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Eccoci qui con Centro Città, stiamo parlando di Napoli e purtroppo abbiamo avuto un'interferenza, è arrivato qua un ragazzo no, che scusate. No, si vuole lamentare perché dice che vuol dire la sua su Napoli e vuole parlare assolutamente e noi gli diamo la parola e abbiamo qui con noi Ezechiele. Ezechiele? Sì. Beh, penso... di Bergamo Sita. Vabbè, avevo un po' capito che eri del nord, ma... Bergamo? No, io sono del sud di Bergamo. Ah, del sud di Bergamo e... Quindi sono anche una persona del sud e posso capire le problematiche del sud, però qua si sta dando una visione distorta della realtà. Perché innanzitutto io, 3 anni fa, ho avuto una compagna di Napoli e vi posso assicurare che tutto quello, questa immagine idilliaca che si sta dando di Napoli è tutta una falsità. Ma scusi, ma poi quella ragazza è finita... Sì, è finita, si è messa con un magrebino alto 2,10 metri. Non so, solo perché io sono alto 1,50 e peso Non aveva tutti i torti, scusi. Cosa? Ma cosa stai dicendo? No, scusi. Nord e sud a confronto, che ragazzi. No. Un chiodo impiantato da un martello rotto. Oh, mio. Ma no, intendo semplicemente che chi è abituato al calore di Napoli non può non preferire un magrebino ad un polentone. Ma io sono caldo, guarda. Mi faccio la pasta asciutta sulle mani quanto sono caldo. Si sta proponendo, mi sembra che possa nascere. No, non è il mio tipo, sono buone. Come non sono il tuo tipo? Neanche te sei il mio tipo. Scusi, ma lei non è che ha un po' un cuore infranto, no? Perché... Ma il cuore veramente ce l'avevo, però vista i problemi economici ultimamente, insomma, l'ho portato al banco dei pegni. Quindi ha anche problemi economici e... Ma adesso no, mi hanno dato... 30 euro per questo cuore, per mazza, giornata a fare, ci bro. Vado avanti. Ma lei magari può andare a Napoli e aprire, non so, una qualche attività, esportare qualcosa di tipico. Fegati? Che... anche un qualcosa, Reni? Non so. Wallere magari. Wallere, cosa vuol dire? No, ma attenzione, lei è stata con una napoletana. Allora qua comincio a dubitare della veridicità delle sue affermazioni, delle sue dichiarazioni. Ma in effetti lei mi parlava, però io non capivo molto di quello che mi diceva. Però mi sembrava che questo non inficiasse il nostro amore. Il dibattito si sta accendendo. Forse perché voi uomini, come al solito, non sapete leggere il cuore delle donne. Secondo me si piacciono. Secondo leggere me leggere il cuore delle donne, secondo me è nato veramente un amore tra i due, perché continuano a parlare, ragazzi. Dopo, se volete scambiarvi il numero di telefono. No, ma cosa sta facendo? No, stia fermo. Ma io stavo solo rimuovendo una mosca dalla spalla. Volano e ma scusi, ma dove ha messo quella? Ma se no, ma non si ma fa c'è così. Una mosca, insomma. Ma cosa sta facendo? Cene. Lo so che voi napoletani siete abituati agli scarafaggi. Già. Ne abbiamo le prove. Allora, gli scarafoni, no. Fino a prova contraria, stanno a Brura Bruxelles. Questo no. Io conoscevo una ragazza di Napoli che ovunque andava c'erano degli scarafoni in casa. Scarafoni brasiliani. E anche qualche parigino, immagino. Qua la conversazione si sta facendo, non so, c'è qualcosa che dovete dirvi, qualcosa che magari voi due vi conoscevate già prima, magari... No, questo è lo scoop, è lei la ragazza che aveva infranto il cuore al nostro ospite. Sì. No, beh, veramente, comunque no. Io adesso avevo un appuntamento con chiariamo un poco questo discorso. Innanzitutto, io ho preferito il magrebino per evidenti ragioni. Ragazzi, qua dopo tipo, ma avete cosa? Ma poi c'è la famosa regola della L, no? Ma lei ha complessato, Sì, no, suonavo in un complesso quando ero giovane, però cosa ma vuol scusi, dire? Ma lei è napoletana, caliente, mi piace l'uomo napoletano, ma com'è? Ma infatti questo giustifica il fatto che l'abbia lasciato. Non potevo continuare a sacrificare così tanto la mia natura partenopea. No, lo dico, lei voleva sperimentare per vedere se i napoletani sono veramente il meglio, no? Sì, allora esattamente. Detto, adesso vado al nord, così posso dirlo con certezza. Sì, ma assolutamente sì. Posso scrivere anche un libro. Magari scriverà ma un libro. Ma scrivere, diciamo... ma figuriamoci. Io sono laureata, bello. Cioè, io che non so leggere nel cuore, quella lì che l'ha comprata la laurea, forse a Napoli, sì, perché si compra anche la patente. Non accettavano i soldi del Monopoli, ma pensate, adesso provo a comprare a Napoli, magari accettano. Ma secondo me lei è un po' sfigato. A me sembra un po' sfigato. Sì. No, ma vabbè. Cosa? Vabbè, io vado adesso. Qua si prende gioco della mia intelligenza. No, ci del tenevo mio a dire raffinato una intelletto. Ci tenevo a dire una cosa. In quei 3 giorni in cui siamo stati insieme molto intensamente, di la verità, ti ho insegnato cos'è la cazzimma. Effettivamente quella era l'unica parola che capivo. Bene, allora almeno è servita a qualcosa. Infatti costa è una cazzimmosa, dice, sì. Ma sentite, ma voi vi passavate i vostri momenti romantici tra un cassonetto, un rifiuto e un altro? O vi facevate spazio tra i rifiuti? Eravamo fra i rifiuti con il fornaio da campo a farci la pulenta taragna. Eravamo tutti pieni di polenta taragna. E qualche ratto ci cambiava i capelli. Qualche monnetto. E ci davo un bacino. Ma di la verità, hai sempre preferito i ratti a me. Sì, li hai sempre considerati più virili. Ma senta, adesso a lei mi sembra veramente che è venuto qua per questioni personali, però noi stiamo parlando di una città e visto che abbiamo toccato l'argomento Monnezza perché stavamo parlando parlando appunto di questo problema che riguarda Napoli, volevo chiedere un attimo se tu l'hai visto coi tuoi occhi, tu ragazza napoletana ovviamente. Cosa? Questo problema dei rifiuti a Napoli. Sì, a voi, a voi. Si era persa ormai. Sì, no, mi ero persa nei suoi occhi. Sì, effettivamente a voi il problema della spazzatura è verissimo. E Berlusconi non l'ha risolto. Nel centro di Napoli la spazzatura viene raccolta, a volte. Nelle periferie no. Nelle periferie nessuno proprio se ne frega proprio. Esattamente. Un napoletano direbbe se ne frega, sta in guaiate. Se ne fotte. Quindi a Napoli stanno proprio in guaiate, sì. No? E anche per quanto riguarda la disoccupazione stanno in guaiate, no? Sì, ahimè sì, ma quello mi sa... Oramai è un po' in tutta Italia. Un po' in tutta Italia, ma Napoli insomma. Sì, sì, sì. No, ma è tutto vero quello che si dice in Napoli, però è anche vero che è una città meravigliosa. Ma come mai? C'è anche un altro forum che dice: ma perché i napoletani sono più dei cinesi? Perché ovunque vai c'è un napoletano. Vai a Bruxelles, napoletani, vai in Germania, napoletano, ovunque ci sono i napoletani. Perché? Perché noi siamo un popolo che... chiamiamo. Sì, ma non siete 20 milioni, siete 3 milioni con tutte le province. Come cavolo fate ad andare in tutto il mondo e essere sempre ovunque? Ma perché appunto da noi non ci sono opportunità, quindi chi ha un po' di qualifica, un po' di cervello, un po' di spirito di avventura, appunto si avventura. Ma scusa, quindi a Napoli non c'è più nessuno? No, a Napoli ci sono, c'è un sacco di gente, ci sono gli studenti, ci sono i marinai, ci sono i guappi, ci sono i bambini che a 8 anni ti minacciano con un coltellino. Beh, bello, no? Così sì. Abbiamo anche invogliato le persone ad andare a visitare Napoli. Sì, a proposito, ragazzi, fate attenzione. Quando andate per il centro storico di Napoli, mai da soli. Portate in tasca 5 euro un cellulare del, non lo so, del 1951. Perché vi fottono anche le mutande. Esatto, il secondo comandamento. No, ragazzi, bisogna fare attenzione. Vi piacerà, ma bisogna fare attenzione. Beh, penso che adesso siano già lì con le valigie, no? A guardare i voli per Napoli, perché... cercare cellulare. Provare per credere. Napoli rimane sempre una città stupenda e invitante. C'è un blog che è dei napoletani nel mondo, dove praticamente questo ragazzo dice che a Napoli stiamo proprio inguaiati, che nel 2008 gli tocca andare al mercato nero, e non al mercato nero dei tempi di guerra, ma al mercato nero sporco, insomma, pieno di munnezza da tutte le parti. E dice: ma io vorrei sapere chi è andata a dire che a Napoli si vive bene, la spazzatura non è un problema grave. Immediatamente ci hanno spedito la munnezza, perché si sa che a Napoli sparisce tutto, quindi hanno pensato che sparisse anche la munnezza. Loro ci dicono che c'è immondizia perché non abbiamo costruito i termovalorizzatori, no? Termovalorizzatori, giusto? Ma tu vai da un napoletano, no? Un napoletano che vive magari a Secondigliano, in periferia, gli spieghi di sti termovalorizzatori, ma cosa vuoi che sia? Pure gli dici di fare la raccolta differenziata, e il sacchetto blu, il sacchetto giallo, il sacchetto bianco. Già il napoletano fa fatica a infilare, no, il rifiuto dentro. Sì, infatti in questo devo ammettere la arretratezza del popolo napoletano. Effettivamente la raccolta differenziata non sa neanche cosa sia. E il problema di Napoli è questo, probabilmente, che la gente è troppo individualista, pensa troppo a se stessa e si arrende. Si arrende. O se ne frega, o se ne fotte, no? No, ma non è anche un problema di... non lo so, è forse pigrizia. Forse semplicemente. Il napoletano è pigro, poi c'è anche la disoccupazione, no? Magari non è che il napoletano non vuol far nulla, ma proprio non c'è da lavorare. No, e esatto. Quindi è un problema grave che bisognerebbe risolvere. Io mi chiedo come mai nei telegiornali si senta parlare sempre di Napoli, sempre della Campania, mai della Sicilia, ma della Calabria, mai della Puglia. A dopo. Qualche volta per vedere se hai... sapevo, non facendo a tempo a parlare, non sapendo che loro volevo, non essere, non voglio dei miei sapere. Cando per la strada per capire chi sono, mi giro un'altra volta per vedere se almeno la verità è una lunga mia da correre. L'aria quando senta non dice chi sono, senta una voce che mi dice voglio. Ciao a tutti, benvenuti, bentornati a Radio Alma, bentornati a 100 città con Napoli. Abbiamo qua in studio Jessica. Ciao. Direttamente da Napoli, eccola. E abbiamo un altro ospite. Ciao, io sono Pasquale. Pasquale, benvenuto. Pasquale. Solare, caloroso, come tutti i napoletani. Oh, ma il napoletano non è mai triste. Cioè, non c'è il napoletano ma che piange, che è serio. Ma perché dovrei essere triste? Ma non sono mai solo investito la macchina oggi. Vedi, il napoletano... Ma ho rotto una gamba, ma tanto... Il napoletano qualsiasi due. Cosa gli succeda. Sono solo strascicato qua, sanguinando, uè. Ma che, però... Che accento particolare, no? No, perché sono un napoletano ibrido. Sono ibrido. Ma ragione sì, o fra? E io scaldando. Sono da Forcelle, però sono ibrido. Wow, vero sei Forcelle? Sì. Wow, non è che conosci Beppino Chiattone? Ah Beppino Chiattone! Sì, salivo con lui quando ero un guaglione. Salivi? Sì, ma scendevo. Ah, scendevo. Perché sono ibrido spagnolo. Ah, già capito. Ma cioè, Jessica, secondo me, ha notato qualcosa. Non so, sì, è convincente. Direi che magari non è veramente un napoletano doc, mi sembra. Mi sembra di capire. Poi con quel salivi si è un po' tradito in realtà. L'ho detto che sono un ibrido spagnolo. Ah, sì, spagnolo, veramente. Beh, sì. La faccia è da napoletano, però la che faccia. Tal? De donde tu eres? Io sono ibrido, sono mezzo napoletano, mezzo spagnolo. Va bene, allora chiediamo al nostro nuovo ospite che si chiama Pasquale, detto di cognome. Pasquale... Il cognome, dai. Pasquale Lopez. Pasquale Lopez, ok. Lopez Marquez. Allora, dici. De las Casas. Dici cosa ami di Napoli e cosa odi di Napoli. Allora, innanzitutto ci sono dei monumenti storici spettacolari. L'accento è inascoltabile. Io non so da che parte venga di Napoli. No, in realtà. Ma sei sicuro che sei Forcella? Sì. Ma qua c'è lo scambio. Forcella, ma non so. Però nella comunità spagnola di Forcella. Ah, con gli ho capito. Quindi ti piace di Napoli la multiculturalità? Sì, chiaro. Perché... Sì, a me piacciono tanti culti. Poi ci sono delle ragazze con dei culti veramente bellissimi. Scusate, non intendevate quello? No, ma scusi, ma lei la smetta di fare quell'occhio da provola con la nostra ospite? Ma che se mi sengavo? In capo? Ogni volta arriva qua che... un ospite e ci sta provando la nostra Jessica. Non ci mancava di Verdurini. C'è la signorina avvenente. Verdurini e i brasiliani. Però... E i burocrati e i parigini. Oh, Fran, no, non è cosa, Fran. Si potrebbe coprire, perché è un po' nuda. Comunque, vabbè, così infatti, ci sveste. Una ragazza così avvenente, poi la signorina pretende che mi stuzzica gli ospiti e dopo... Beh, quindi, allora, le piace la multiculturalità, è una cosa che odia. E i monumenti. Ah, quali monumenti? Ad esempio c'è questo bellissimo monumento del gatto che che vomita sull'erba vicino. Oddio, alla piazza. Di questo non lo sapevamo. Il gatto che vomita sull'erba. Sì, con tutto questo vomito dorato. Oddio, ma pieno di arte moderna, non arte moderna forse. Ma di no, no, non è moderno, è stato fatto dagli spagnoli nel 1500. Ma dove si trova? Dove si trova? Nella piazza di Forcella. Nella piazza di Forcella. Jessica cosa dice qua? Nella piazza principale. Ma sì, il gatto, quel gatto con il... No, in realtà un con gatto... la schiena incastonata. Un gatto che vomita oro, io a Napoli non l'ho mai visto. Ma lei, non... secondo me, lei si è fatto un viaggio sbagliato e ha visto viaggio? Questo monumento. Sì, sì, sono viaggiato per venire fino a qua, da Forcelle a... No, a ma lei non può fumare in studio, ma cosa sta facendo? No, ma spenga, no, ma che sto cos'è? Fumando, sto solo si porta all'evere un po' di la roba qua durante l'intervista. Ma è l'incenso, no. Cosa mi parla? Senta, lei offende col suo comportamento i napoletani nella loro totalità. La vuole un po', signorina, di incenso. Io ci credo che la gente pensa male di Napoli. Vabbè, quando si trova di fronte gente come lei, si deve vergognare. No, ragazzi, non alzate le mani, state buoni, non attaccate. Fermi. Allora, qua sono volati degli schiaffi. No, guardi che lei ha una guancia che veramente. Oh, ma tu sei una cazzo male. La guancia. Piano, non esageriamo, perché poi dopo magari qua gli ascoltatori rimangono un po' scandalizzati. Allora a questo punto chiediamo a Jessica. Jessica, cosa ami di Napoli? Ami il nostro ospite? Assolutamente no. No. Come no? Di Napoli. Di Napoli amo... Amo Castel dell'Ovo, amo il mare, amo il sole, amo il Vesuvio, amo la pizza, amo la felicità, amo i sorrisi della gente. Amo la leggerezza con cui i napoletani prendono la vita, amo il loro modo di minimizzare, no? Il loro modo di essere felici anche con niente. Allora minimizzano anche le donne, gli uomini, nell'amore? No, non minimizzano l'amore, anzi lo esaltano fino all'assurdo. Sono un po' pesanti. No, i napoletani sono dei fantastici amatori. Dopo un po' quanto si vedono. Sono passionali. Ma sono più romantici i brasiliani, fanno sentire... lo sappiamo. Ma qua i brasiliani, ragazzi, non c'entrano. Lei, scusi, ha un complesso di inferiorità nei confronti dei brasiliani. Perché vero. Sta tirando fuori da tutta la trasmissione. Solo dei brasiliani. Guarda, con c'è nome una tedesche. Trasmissione che facciamo un servizio psicologico agli ospiti. Io le consiglio di andare in quella, perché questa non è la trasmissione giusta. No, ma infatti. I brasiliani, poi continua sempre a avvicinarsi. Sì, ma infatti, ma metta giù le mani, ma come si permette? Ma non sono le mani, sono i piedi. Ma non si può, ma scusi, ma spenga quella roba che ha acceso e le ho detto di spegnerla. Ma è quasi finita, ormai c'è il fondo. Dio, e non la voglio, cosa me la passa? Tenga il fondo. No. Tanto guardi, c'è. Si vergogna. No, i napoletani sono fantastici, questi omoni possenti con questi. Ma si sono anche un metro in tappo che io li vedo. Ma quando mai? Ma l'hai visto questi napoletani? No, ragazzi, i napoletani sono eccezionali. Qui abbiamo Pasquale che è di Napoli, ma no, cosa no, sta senza offesa, però. No, diciamo che Pasquale è un po' l'eccezione che conferma la regola. Non si offende, no, ma io in realtà sono attratta da lei, ma soltanto perché è napoletana. Ma perché fa quello sguardo lì, ma sexy, con la lingua? A questo punto esco qua e trovo tutte le ragazze belle che voglio. Ma non si può, ma ascolti. Ma dai, allora, torniamo seri un attimo e parliamo di un argomento che è la musica, che tutti ci riguarda. Lei ascolta musica, sì. Immagino. Jessica ascolta musica. Ascolto la musica del ruminetto quando perde acqua. È bellissima. Vabbè, una cosa concettuale che solo lei può capire. È un poeta, è un poeta. Ma per esempio abbiamo i 99 Posse, sì, recenti, no? Gli Alma Megretta, sì, che sono veramente un gruppo eccezionale. E poi abbiamo avuto, che ne so, Pino Daniele. Grandissimo Pino Daniele. E poi chi abbiamo avuto che ha rappresentato la canzone napoletana? Dai ragazzi, qua fatemi vedere la vostra napoletanità. Dai, la sceneggiata napoletana. No, ragazzi, no, Nino D'Angelo no, ma Mario Merola no, non si può sentire. No, ragazzi, no.

Allora, dai, per chiudere così, dacci un po' della tua Napoli qua in studio con un proverbio, magari. Allora, inizio io. Ah, inizia Pasquale, ha preso la parola, così ormai è il suo programma. Gicette, pulicenella, pemman, canza e denari, quanta scampagnate camaggio per. Ma che è sta roba? Mamma mia, questo è napoletano. Ma quando mai? Ma non si legge così il napoletano. Ecco. Ricette, pulicinella, camanganza e denare, canta scampagnate camaggio perso. Fantastico, questo è il vero napoletano. E lei si vergogni che va nelle trasmissioni a far finta di essere che si spaccia per napoletano. Questo è oltraggio. Questo è oltraggio. A parte che mi sembra quello che è arrivato prima, solo che ha degli altri capelli, si è messo la parrucca, no, è quello di Bergamo. Oh, scandaloso. Non è vero, scandaloso. Non è vero. Vabbè, no. Allora, io dai. Sono senza parole. Siamo in chiusura, lasciamo così dei numeri da giocare, vai, no? Vai, dei vai. Numeri da giocare, vai Jessica. Io vado con 62. Sai cosa vuol dire? Ho morta accisa. Ok, e vai tu. 87 e perrucche. E tu Giulio, il numero da darci così? Un numero. A caso 3. Ok, allora io dico il 7. Ragazzi, giocateli, perché Napoli porta bene. Chiudiamo però con la vera Napoli, che è Jessica. E quindi salutiamo con Why you stay with buon. Ok, allora un grande saluto da tutti quanti. E diamo l'ultimo saluto, anche se tu lo vuoi dare. Ciao, la mamma, la polenta. Ok, perfetto. Allora salutiamo tutti, alla prossima puntata. Speriamo che non sia il delirio come questa volta, forse sarà anche peggio. Va bene, al prossimo giovedì. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.